Allora, iniziamo questo nostro approfondimento. Oggi abbiamo tra le mani degli estratti da I segreti dei motori di ricerca di Carmelo Cutuli. Ah, un classico. O meglio, un pezzo di storia. Esatto, un testo del 1999-2001. Lo useremo un po' come una macchina del tempo per vedere com'era il web allora. Un web quasi irriconoscibile, direi. Decisamente. Vedremo cosa è cambiato, quali tecniche sono, preistoria digitale. Tra l'altro, l'autore stesso metteva le mani avanti, eh? C'era scritto: le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. E mai avvertimento fu più profetico. Siamo a cavallo del millennio, un'era completamente diversa. Altri attori, altre dinamiche. Sì. Questo libro cattura proprio quel momento lì, di grande fermento, di grande evoluzione. Fa quasi tenerezza, sai? Leggere l'elenco dei motori principali. C'era Altavista, Excite, Northern Light, Inctomi, Hotbot, Lycos. Docom, che era InfoSeek prima, e Google. Ma Google c'era, ma presentato come uno dei tanti, una novità quasi. E Yahoo! Era la directory per eccellenza, compilata a mano. È pazzesco pensare a quanto è cambiato il panorama, vero? Google era solo uno dei player, oggi è, il gigante che conosciamo. Già, molti di quei nomi sono spariti, o quasi, e l'idea di una directory manuale come strategia centrale, superata. Completamente. Il testo poi entrava in dettagli tecnici che oggi sembrano archeologia, tipo i comandi per verificare link e popolarità, Ah, sì. per Go, InfoSeek, Hotbot, Altavista, Site, Link, Domain, URL, te li ricordi? Ma certo. Roba completamente obsoleta oggi. Oggi usi la Search Console, usi tool avanzati, ma quelle query specifiche. Non servono più a nulla. Esatto. Hanno perso totalmente di significato nella pratica quotidiana della SEO. Poi c'era un'enfasi enorme sui meta tag. Description, keywords, erano fondamentali secondo il libro. Fondamentali. Si discuteva persino se usare maiuscole o minuscole. Il consiglio era solo minuscolo. Sì. E già si metteva in guardia, questo è interessante, contro il keyword stuffing e il testo nascosto, l'hidden text. Qui il cambiamento è stato, diciamo, epocale. I meta keywords Sì. ignorati. Quasi tutti i motori li ignorano per il ranking. Troppo facili da manipolare. Ah, ecco perché. La description ha ancora un suo ruolo, certo, ma più per l'utente, per convincerlo a cliccare. Non tanto per il ranking diretto. E lo stuffing, il testo nascosto? Ora ti penalizzano pesantemente. Molto pesantemente. Sono considerate pratiche spam, giustamente. Il manuale parlava anche di tecniche come le bridge pages, le doorway pages. Gateway, jump pages, sì, avevano tanti nomi. E il cloaking. Però, come dicevamo, già all'epoca c'era un avvertimento sullo spam. Assolutamente. Tecniche che oggi cataloghiamo subito come black hat. Certo. Metodi ingannevoli fatti per fregare i motori, non per aiutare l'utente. E l'avviso anti-spam del libro era premonitore. Diceva che i motori diventavano sempre più sofisticati e intelligenti. Avevano visto lungo. Un'altra cosa che fa sorridere, pensando oggi, è la sottomissione dei siti ai motori. Ah, la sottomissione manuale. Sì, manuale per i principali e poi tool automatici per migliaia, dico migliaia, di motori secondari e directory. Si parla di 5.000 motori, 350.000 directory e FFA. Che roba erano le FFA? Free for all pages, pagine piene zeppe di link dove chiunque poteva aggiungere il suo. Una pratica, inutile oggi. Mi immagino. Tutta l'idea della sottomissione massiva è morta e sepolta. Oggi c'è il crawling automatico. I motori ti trovano da soli, seguendo i link. La sottomissione manuale è quasi un ricordo. Un'azione residuale, forse via Search Console per casi particolari, ma nulla di più. Poi c'erano i problemi tecnici, come i frames. Mamma mia, i frames. Si raccomandava il tag no frames, link con target di cola top, per non intrappolare l'utente o lo spider. Tecnologia web completamente abbandonata. Creavano un sacco di problemi. Usabilità, accessibilità, indicizzazione, un disastro. E infine un elenco di software che sembrano usciti da un museo dell'informatica. URL submitters, meta tag optimizers, doorway generators. Rankers, sì, un arsenale di un'altra epoca. Esatto. Strumenti focalizzati su singole tattiche, spesso obsolete. Oggi si usano piattaforme integrate, l'approccio è molto più olistico, strategico, contenuti, esperienza utente, autorevolezza. Però, attenzione, non è che tutto sia da buttare via di quel libro, eh? Ah no? Alcuni principi di fondo restano validi. L'importanza di avere un contenuto interessante, sacrosanto, oggi più che mai. Vero. Capire come funzionano i motori a livello base spider, indice, query, serve ancora. E l'idea del ranking basato sulla rilevanza, beh, è ancora il cuore di tutto, anche se gli algoritmi sono infinitamente più complessi. E l'avviso contro lo spam? Attualissimo. Quello non invecchia mai. Quindi, insomma, questo testo è un documento storico notevole. Ci fa vedere quanto è cambiato tutto e quanto velocemente. Esatto. Tante tecniche sono diventate folklore digitale. Ma la sfida per essere visibili online, quella c'è ancora tutta. Eccomi. E proprio questa velocità ci porta a una riflessione finale forse un po' provocatoria. Sentiamo. Se vediamo quanto è cambiato in circa 25 anni, quali delle nostre certezze di oggi nel marketing digitale, nell'IA per la ricerca, nelle strategie SEO che usiamo adesso, sembreranno altrettanto datate, magari perfino ingenue, tra altri 20 anni? Bella domanda. Già, è un invito a ricordarci quanto sono effimere, a volte, le strategie digitali e quanto sia fondamentale continuare ad adattarsi, a imparare. Non si finisce mai.